qualcuno all'ascolto? Attenzione, canale 10, c'è qualcuno in ascolto? Hola, hola, hola. Gli ho legati a capappari Ho fatto il video in diretta su Facebook e ho detto che stavo portando i pinci a pisciare. Sì, in effetti sì, ti puoi spostare i piedi quel tanto, è vero, confermo. E poi ti devi attaccare col vicino e devi bisticciare. Avanti il break. Avanti, buongiorno, buon pomeriggio, tutto bene per il momento. Dai, compagnia di Antonio Riserva, non so se ti ascolta. Avanti, Antonio. Lui non c'ha antenna, Non c'ha antenna, Antonio, è negativo, non ti ha accoppiato. Avanti, Antu. Comunque ti saluta, Aspetta che ho dei messaggi da leggere, da sentire, un attimo. Ok, io mi assento, ci sentiamo dopo, scusate, devo uscire. Attenzione, attenzione, attenzione, canale 10, attenzione sul canale 10. Mamma sera da. Comunque, l'uomo che la passa è pazzesca. interessa, mi lascio questa qui e boh. No, sì, ti ho chiamato perché era fatto web che mi ha telefonato perché mi volevano sganciare, mi volevano dare la linea di fatto web, ma io sul team e non me ne frega niente. Oh, sì. Perché ho chiuso la telefonata e via, non mi interessa. Ma era una segreteria di fatto, neanche era una voce registrata. No? I call center che si disturbano a tutte le ore, si disturbano specialmente alle ore dove stai, ho mangiato, ho pranzato, ho cenato. Anche se è capitato anche a me lui. Ma cosa vuoi che ti dica, Ricco? Qualcuno che vuole entrare. Io sento un fischio in lontananza e basta. Ma io non ho sentito nessuno, ma adesso c'è il cane tra me. Cosa vuoi? Cosa vuoi? Lui cosa fargli fare, capito? era addestrato proprio bene quello che avevo io. Ho quello che ho adesso è piccolino, un ordine da taglia. Però quel pastore tedesco era addestrato, quello che avevo in campagna, quello era bellissimo. Sì, ma dillo che il gusto è col cuoco, le dillo. Ah. Ah, sentiamo dopo, dai, stanno a fare la spesa. Ciao Luca, ciao, ben sentito. Sì, ciao Natalia, riprendi Nicola dopo, ciao. Ciao, ciao, senti, thank you. se può uscire proprio da faccia, di dare a fissarmi. Bisogna vedere cosa dice il sindaco. Capito, bisogna vedere se non è che emette un'ordinanza che ti vieta proprio di andarci alla rotonda. Hai capito cos'è il discorso? Perché Sassari città, magari il sindaco toglie l'ordinanza di non uscire proprio dalla città per evitare contagi e balerrari, ma penso che a quella data sarà finito tutto, speriamo di sì perlomeno. Ti ho fatto il tiramisù, poi ho fatto la minestra e fagioli, quindi è nell'apparato gatta oggi. Speriamo che sia uscito buono. Ma sì, che è uscito buono, buono. Adesso lo taglio e lo faccio assaggiare a mia moglie, la faccio fare la cabbia, gli faccio fare. A Palermo quando si fanno fare i fagioli, si fanno così i fagioli e la pasta si butta nel pezzolone dei fagioli. Invece si va direttamente, con il colore, i fagioli, la pasta parte e poi si inizia. Sì, ho capito. Ma, va bene, io ti lascio che vediamo un po' a vedere cosa... Ci sentiamo stasera al limite, tanto non c'è nessuno. Guarda, non è capito, è prendersi una porzione di dire più a questo vediamo dove si può uscire. Ma si è sempre fatta una cosa del genere, no? Ci sono queste catastrofe, cose che fanno sempre dentro un minuto di silenzio, anche le squadre di calcio lo facevano, si trovano in curva. Sì, vabbè, ma sono cascato. Sono il tempo buttato alla... a cercare di combattere questo virus che ha diventato il problema. Cavagava! Vabbè, ma noi l'abbiamo fatto lo stesso. Lucretia ci si, Lucretia oggi non ci è andato a fare la spesa anche lui. Io meno male sono andato presto, non ho trovato nessuno, sono entrato direttamente. Sì, ma sono andato alle 8 oggi. Sono andato alle 8, la prima cosa che ho fatto, ho mangiato, ho fatto colazione e poi sono andato. E non c'era nessuno, oddio, c'erano due o tre persone ma dentro. Quindi il negozio è grande e mi hanno fatto entrare subito. E ti dico che ho trovato tutta la roba di prima qualità, ho trovato la verdura che stava arrivando oggi, era addirittura sulla pedana ancora, mi ha dovuto smantellare la pedana per darla. Verdure e frutta le ho prese fresche e fresche. Poi è arrivato tutto, cazzo, oggi c'era tutto bello fresco, la carne, tutto qua. Sì, è arrivato tutto, è arrivato tutto. Sì, ma lunedì, se tu vai di lunedì, vedi tutta la roba tutta cucciupita, non c'è via niente. Invece va il martedì e ci sono gli arrivi della roba fresca. Lunedì non c'è nulla, non c'è la roba che è fatta dal sabato. Vedo così tragica. Per fare la spesa. Sì, vabbè. Già, allora, è critica. Sì, dico, non la vedo così critica, restare a casa, questo è solito. Ah, vabbè. No, nemmeno io restare a casa, avevo critica. Ah, di fatto, a certi visti, stare a casa è un problema. Stavo le cose, prendevo la macchina, uscivo, facevo, compravo, tutto quello che devo fare facevo. Adesso per dire, c'erano gli animali che stanno per finire la roba, ma non si sono aperti i negozi. Sì, ma c'è la qualsiasi negozio del cane? No, quella che li do io al cane, no. Io li do il trailer, come mangini, non me ne do roba alimentare di quella... No, io devo comprare una macelleria di cane. Cosa li compro? Cane di cavallo, capocollo. E anche io gli do fetti di pollo, pasta senza sale, li metto le crocchette in mezzo al pesce, però le crocchette sono di quelle che costano 50 euro il sacco, e sono di chi di costare un bel... Sì. E al cane mi prendi tutto quello, tu cosa mangi, crocchette? Esatto, anche mangiare, non li compri su. Buongiorno. Io mangio carne lo stesso, ciao fra. Se non c'è carne mangio uova, mangio altra cosa, non c'è problema, io mangio. Guarda, io li hanno cruda perché lui era combattimento, ma come? Bello, guarda, c'è un Galaxy Saturneco. Uno a 250 e l'altro a 280, non più. Troppo. Ce ne aggiungo a 200. 200 è il prezzo giusto, se è a posto. E l'iPhone lo conosco. Io l'ho pagato 200 ma non c'era un grappolo, il microfono addirittura aveva il nylon, nuovo. Io questa qui è la prima volta che uso il microfono normale, ho usato sempre quello amplificato qua. Attenzione, la base c'è dei Galaxy Saturneco, il microfono originale è compreso di valigie, come la porta, perché mai non funziona, l'ho usato pochissimo. Ah, perfetto, sono più freddo, per 200 euro va bene, non ti dico. Con la responsabilità. Ma quello lo possiamo prendere. Dai, forse è nuovo. Sì, ma tu magari anche per la responsabilità. Avanti. Ecco. Ma è così, magari... fermo e buono, poi risale comunque smanettato. Il mio sono sicuro che non è mai stato toccato, perché l'ha visto un tecnico, ma detto, questo qui non è mai stato toccato. È originale come dalla fabbrica. Capita, è difficile trovarli così. Ma infatti quando ha avuto il difetto l'ha trovato subito, tranquillo, non ha avuto problemi. Se sono toccati poi è un casino, perché devi stare a controllare tutte le tensioni, tutto l'anno. Non fa pagare troppo il microfono, vai. Con 50 euro lo prendi nuovo. Sì, ma io sto guardando con interesse. Questo 300 euro, prendo la base autorizzata, c'è tutto in tasca, tutto ecco, il CD è stato modificato con l'eco colto e dopo con l'attore. Con due finali, l'uscita originale, il palazzino è stato un po' modificato per avere una modulazione forte per tram. Appena revisionato dal tecnico specializzato del settore. Questo settore ci dice che questa tramite la repressa per attivare l'elenco si può appunto inserire il sale da loro e inserire suonare la sua trattata. Attivo acquista, regalo di capo della base, 300 euro, possibilità di spedizione e pagamento anticipato, per il tempo, bla bla bla. Pagamento anticipato, rimane lì lì e non li vedi più l'apparecchio, come hanno fatto con me, 200 euro me li hanno rubati. No, pagamento anticipato, non è. E ma infatti non ne faccio più. Versamento West Union, era un'associazione a delinquere. Praticamente andavano in Inghilterra, compravano la carta telefonica per telefonarti, poi tu andavi a telefonare a loro e non rispondevano più. Una volta che tu avevi pagato non ti rispondevano più. Allora, guarda, bellissima, è improbabile, stazione base, base, gas, Saturneco, circondante, buone condizioni per l'età. Generata senza maniglie con microfono testa A MD più 4, applicato la base. Basta controllare, aumentata di potenza, può funzionare, dove sta sbagliato. Con i suoi 10-4, la M3-20 in SD, oppure mediante il produttore posto dietro a circa 50 stata fa la M. Non basta, se non basta, tu ne sei seduto. Cosa già? Già messo un interruttore dietro. Sì, ma esce con 100 watt e se c'è più. E con quell'interruttore se si può stata fatta in FM. La linea retta l'ha messo dentro. Cosa fa? Sì, sicuro l'ha messo la linea retta dentro. Sì, e li vuole fare tutte e due. Sì. Quindi c'è una ragione che fa una meraviglia, un buon il nostro. Questo è bellissimo, cioè dalla foto non c'è un grafico 250 lo stesso, special game. Salve, prendo apparato, guarda, sta più bene in perfette condizioni, così come è qui. È perfetto, è un diciamo. Gennaro, un mese di lavoro. Stavo a stare guardando. Dai, stai in ascolto, io vi saluto, dai, che devo fare roba. Ci sentiamo, ragazzi. Sì, ciao, già. Ci sentiamo. Questo è raccontante. Pensate? Se non è una persona che viene venuto con la bomba, è di tutto, è di tutto, è di tutto, è di tutto, è di prima di venderlo pure che fanno un film di giorni, prima di venderlo lavora a tendere, no, ma prima si funziona, no. Ma questo si può fare le calcine, la prova dei calcine, il microfono l'ha già venduto, sta venendo la parata. Il caffè calcina, il caffè CB. Sì, ma dalla foto l'ha messo benissimo. Sì, c'è gente che si tiene, si mette in calcina, però se no. Sono contro la scatola, vesti bene, bene con questo. Questo 350, però il tubo, grazie stato un tubo, versione potenziata della vecchia Saturno. E questa è il piede 2732, che ho superato dopo performante, ovvero per realismo. andiamo a venire anche un uomo già, uno dei visti, dell'80, e ci vuole 300 euro. Quando ho comprato un posto di metro, adesso ci vuole 400. Diciamo che va bene 300 euro e più ti leggo un po' dall'ufficio del mediatore, senza farci sentire la rubrica. E allora? Sì, vabbè, però sposare il suo giornaliere. Sposa. Ehi, Gianni. Sì, si fa un sacco di mezzo. Ehi, sarà il mese a 70 di stagione, i bambini, i vini. Ma chi è che lo fa? Gabbo lo fa. Ehi, Sandro! Adesso ti ho riconosciuto. Sandro, buongiorno. Miro, miro, amico mio, ciao Sandro, ciao a tutti, Franco, Vanino, Eugenio, eccetera, eccetera. Ciao Sandro, ben ascoltato, è un piacere ascoltarti. La radio è un po' è molto satura, comunque se ti capisce bene quello che dici non c'è problema. Scusate l'entrata a gamba tesa, avanti Franco. Ciao Giulio, buongiorno anche a te, ben ascoltato. Avanti Vanì, a te Vanì. Vanì, prendi il telefono e ti faccio una bassa alla fine. Sì, riprendo io, intanto per salutare Vanino, ciao Vanino, se sei ancora all'ascolto, hai detto che già sentivi tutti, per cui ti saluto. Ah, ho una stretta di mano, le prossime Vanino. Ok, avanti Franco. Diciamo che la radio è abbastanza satura, però si capisce bene. Allora inizialmente quando si è spaventato era ancora più forte la saturazione, per cui hai migliorato un tantino, non so se volare qualche microfono, qualche mic game, qualcosa del genere, non lo so, vedi un po', il segnale, vabbè, è basso, mi hai detto che c'è un antennino, modulato arriva a 9, qua da me. Avanti ancora Sandro. Brecco. Registrato il brecco di Gianni. Ok, mi fa piacere, Sandro, guarda, che tu sia tornato fra di noi per me è una grande cosa, per cui vedo un po', non ti posso dire altro, tu sai benissimo, noi di tanto in tanto ci sentiamo, per tanto non abbiamo da dirci più di tanto di quello che ci siamo già detti alcuni giorni fa. Ok, facciamo venire avanti Gianni Lubrefetta, avanti Gianni. Buongiorno Giulio, buongiorno Sandro, ben sentiti. Giulio, hai la radio appena appena in distorsione, se abbassi un pelino sicuramente esci meglio. Ok, tu sei il mio DG, adesso abbassiamo un tantino. Ecco qua, così dovrebbe andare meglio, oppure non mi sente proprio, perché adesso è quasi a zero. Perfetto, io ti ascolto bene, non so se è Sandro, come un giorno, avanti. Ehi, benemera, benemera. No, volevo sapere da te se adesso Giulio lo ascoltavi meglio, giusto per avere un altro metro di paragone. KK, ok Giulio, avanti. Ok, vabbè, perché ogni tanto fa quando uso il pennello per congelare tutta la strumentazione qui davanti, evidentemente si gira di tanto in tanto il Mikey Gee. Questa radio se poco a poco supera quella soglia e incomincia a saturare un pochino, va bene, o probabilmente ero troppo vicino al microfono, va bene, comunque va bene così. Vediamo se c'è qualche altro che vuole entrare in frequenza. E intanto voglio sapere se c'è ancora Eugenio, ci sei ancora? Sono anche io. Capo. Comunque anche con un antenino vedo benissimo qua, segnale 5, radio 5, perfetto. No, aspetta che mi sono sbagliato, non avevo gli occhiali, arrivi 7 di segnale, 7. Arrivi benissimo, arrivi. Ok, avanti Giulio, un po' che c'è rimasto ancora. Ok, intanto nel frattempo è entrato Gianni Lubrefetta, la stanza lì o qua. Per cui te lo mando avanti, così almeno si può salutare. Avanti Gianni. Ciao Franco, buongiorno anche a te, ben sentito. E niente, abbiamo Eugenio, ciao Eugenio, ti ho salutato poco fa. E niente, vabbè, io ho lo smitter un po' tirchio e a me Franco mi... ma Franco, Sandro mi arriva con un Santiago 3 e 4, quindi sicuramente lo strumentino un po' tirchio lo dovrò far controllare, comunque riesco ad ascoltarlo, dai. Avanti Fra. E tu mi arrivi alle bene di uguale identico a Sandro, mi arrivi. Per avere un attimino Sandro stanno veramente bene. Quindi, va bene, l'importante è ascoltarsi nelle radio, quindi il segnale non è relativo. Ok, niente, Eugenio. La gratuita di Giulio. Ok, riprendo io allora. Sì, è una cronaca, Gianni. Sandro era una superpotenza un po' di tempo fa. Adesso se sei attrezza di nuovo torna ai suoi livelli originali, non ci sono dubbi, lui è capace, pertanto non ha bisogno di consiglio né mio né di nessuno per poter ritornare alla superpotenza di una volta, di qualche tempo fa, non certamente di un secolo fa, ma di qualche tempo fa. Va bene, forse non l'avete mai sentito, suppongo, non lo so, lui si è considerato che lui ci mancava un po' da tempo, della frequenza, e tu sei, diciamo, un pochino non bellino, per così dire, tra virgolette, di questa famiglia così, se possiamo definire la famiglia. Avanti, Gianni. Eia. Sì, il nome non mi è nuovo, quindi non ho... ti ripeto, sinceramente mi sembra di... ti ripeto, il nome non mi è nuovo, quindi... però sai, per non sapere leggere e scrivere rimango così, non voglio aggiungere altro. Comunque no, vabbè, piano piano si sta ripopolando, dai, questa è una cosa piacevole, quindi... Ben venga, quindi niente, dai, meglio così, avanti sa. Infatti, prima era, vabbè, la tua posizione era bellissima lì, era bellissima. Non so se abiti ancora lì, però era stata bella. E niente, che devo dire Sandro, ma vedi sempre lo stesso lavoro? Perché non ti ho sentito più neanche in macchina, ti ho sentito più. Pensavo che... avevo pensato che l'avevo mollato. Va bene così. Avanti, Eugenio, a Bisesio. Sì, sono qua. Il Veranità di Ceruzio. Sì, pensa, sai, pensa più. Parola di Bisesio. Parola che pensare. Sto pensando. Matteo, Giulio, mi capisci? Sta pensando che deve gonfiare le gomme della nave in questi giorni e dunque con la scusa del virus ha paura, ecco, fare il discorso, tutto lì. Bene. Sandro, mi sa che sono io e Franco, se ricordo bene era Franco, qualche tempo fa quando tu ti trovavi in quel di Corsica, in altura, nella parte più alta della Corsica, ci siamo sentiti addirittura in PMR. Confermalo Sandro, a questa gente che non lo sa. Anche se io l'ho già detto altre volte, comunque, da tanto tempo, è stato bellissimo, un bel collegamento. Mi ricordo questo particolare, ed era una grande soddisfazione. Va bene, avanti Sandro. Sì Sandro, mi ricordo benissimo, appunto, è una cosa che tengo in mente proprio perché è stata una giornata soddisfacente per quanto riguarda il collegamento radio che abbiamo potuto fare sia il 27 che sia il PMR. Bene. Avanti Gianni Lubrefetta. Ehi. Ascolta Sandro, mi dici come ti sta arrivando il segnale? Ok, prova radio, sono allo strumentino, sono circa 8 watt, sto uscendo con una boomerang dalla Leme, quella da 3 metri, con radialino puntato a nord, questo è quanto. Aspetta, sì, grazie, no, vabbè, ieri ho praticamente il mic gain della radio a metà, il microfono che è un ZC preamplificato M95, un palmare con il livello a metà, giusto per non andare in distorsione. Allora, l'apparato è un Super Jupix 2000, che sarebbe una sorta di, chiamiamolo, fratellastro del Superstar 3009, dai. Ok, ti ringrazio. Sì, vabbè, io sono sempre stato affascinato con i microfoni palmari, sono un po' restio a questione di gusti, dai. Adesso con questo mi trovo bene, è proprio il fascino della radio, quello di poter impugnare il mic in mano, e quindi io sono, tra virgolette, di quella scuola lì. Comunque dai, facciamo girare, avanti e giù. Ok, sento un attimo di bianco in modo che qualcuno abbia voglia di entrare, noi lo possiamo ascoltare tranquillamente. Sì, beh certo, anch'io. Quella famosa antenna che mi avevi dato tu, l'avevo data a un mio nipote, però l'avevo copiata e dunque me la sono autocostruita. E tanto è vero, adesso io sto usando la Game Master autocostruita, montata in una zona bassa della casa, non più nella parte alta, ma vicino alla parte bassa, solamente con 1,20 m di palo, non di più, attaccata al davanzale della finestra, diciamo, della mansarda. Però gliel'ho chiesta di nuovo, dopo tanto tempo, a mio nipote, gliel'ho chiesta me la risposta, perché lui ce l'ha a Carbonia, lui abita a Carbonia, ma adesso con il coronavirus, e soprattutto perché lui va a scuola, non è che ha molto tempo di riportarla, ma adesso che me la riportava, così posso montare proprio quella originale che mi avevi dato tu. Io avevo ancora la mandoba turbo, che tra l'altro l'ho tolta, sempre ce l'ho comunque, ce l'ho sempre mal montata, e allora avevo provato a fare questa Game Master copiata da quella che mi avevi dato tu. E devo dire che ha funzionato al primo colpo, proprio al primissimo istante, non a caso, proprio avanti ieri che c'era una bella propagazione, abbiamo collegato la Puglia, mi presente c'era anche del stesso canale Gianni, addirittura 9.30 in Puglia in diversi punti, e non a caso mi dà, ma la propagazione, certo, la propagazione è quella che conta, certo, ma per dire, nonostante che è un'auto costruita, sono riuscito ad ottenere delle prestazioni buonissime, è tutto lì, Sandro, mi vedi? Sì, Sandro, certo, no, la massa va meccanicamente, è straordinaria, e anche elettricamente devo dire che è straordinaria quando è in condizione, diciamo, positiva, va bene. L'unico problema che io ho riscontrato nella mantova, che ripeto ce l'ho sempre, la mantova tubo sarà la nuova, veramente la mia, ma l'ho smontata perché sono esclusivamente perché durante la notte, quando soffiava vento forte, allora fischiava e dava fastidio i radiali, ed è per quello che l'ho buttata giù. Ma niente di tutto, allora in quanto l'antenna è straordinaria veramente, non ci sono dubbi. L'unica soluzione, cioè l'unico problema che mi creava era che intanto non era più cortocircuitata, evidentemente non faceva ben contatto con la bobina che c'è all'interno della calotta, e che poi io un paio di volte l'ho sistemata, andava bene per un certo periodo di tempo, dopodiché di nuovo lo stesso discorso. Però in quanto a funzionamento era perfetta, solo che non era più cortocircuitata, per cui soggetta magari, per così dire, facendo sempre la corna, a acqua venta elettrostatica, tutto lì, ma per il resto straordinariamente formidabile, sia il fatto di materiale come struttura meccanica e anche elettrica, questo non ci sono dubbi. Bene, abbiamo allungato un attimino, avanti Franco, scusa la lungaggine del questione. Ma io penso che quella antenna lì, la Game Master, è un'antenna buona, solo che Sandro ha avuto, cioè, dove abitava, di fronte al mare, E il vento era più forte di tutti gli altri punti, perché molta gente ce l'ha con l'antenna, eppure anche se tira vento resiste. Solo che lì, come ha detto Sandro poco fa, faceva la guerra col vento, faceva. Ed era per quello, perché era troppo forte lì, era solo per questo. Ok, dai, Sandro, io ti saluto perché devo andare, mi salutiamo a mangiare. Ci sentiamo tutte le prossimine. E se continui a entrare, già ci sentiamo di sicuro. Ok, ciao Giulio, ciao Gianni e gli altri, dai, tutti e quattro gli altri, ci sentiamo. Riprendi Eugenio e fai girare. Riprendo io allora per salutare gli amici che stanno vedendo. Ciao allora a Franco da Sosso, per più ultimo segnale che sta come sempre sta. E ciao Eugenio, Sandro non lo so se sta chiudendo, non ho capito bene se voleva chiudere, comunque riparto il microfono a Gianni, così anche lui ha la possibilità di salutare sia Eugenio che a Franco almeno. Avanti Eugenio, avanti Gianni. Hey, ciao Eugenio, ciao Franco, buona carica e ci sentiamo sempre in questo salotto, dai. Già siamo in occhi, avanti, sa. Ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ciao, ci ho mandato un messaggio, ciao, ciao, ciao. Sì, beh certo, Sandro, sentimi una piccola curiosità, alcuni giorni abbiamo parlato a telefono, ti ricorderai, no? E tu mi hai raccontato di una seconda attività, eccetera. Lì si usa la radio, così, dimmi sì o no, solo per capire. Ok, ho capito, vabbè, evidentemente anche lì la radio ha successo, ben, molto bene, bene. Va bene, dai, sono l'una meno 7 minuti, abbiamo un luglio, cioè allora luglio alla sveglia che c'è qua su Como di città, va, analogica, è anche digitale, che ha due sistemi di orario, va bene, comunque, va bene così, io a questo punto metà che mi saluto, dai, scendo giù, la vedete, vediamo un po', se mia moglie ha bisogno di una mano, magari un vicino per apparecchiare almeno, che io di tanto in tanto, visto considerato che sono sempre a casa, di tanto in tanto do una mano, almeno, magari mi dimentico di mettere le forchette, ma questo è un altro discorso, perché sono un po' scadente come cameriere. Ascolto finale, dopo faccio l'altro passaggio e chiudo, vai Gianni. Ehi, dai, mi sa che ci sganciamo un po' tutti. Bene mera, dai, buona carica a tutti, sia a te Giulio che a Sandro, a risentirci quanto prima, ok? Buona giornata e alla prossima. Ok, ciao Sandro, grazie per la compagnia, sei un amico sempre, lo sappiamo, no? C'è bisogno che tu lo rispetta. Alle prossime, a presto, a prestissimo, lo immagino, magari stasera, possibilmente, se coincide. Alle prossime, ciao Sandro, alle prossime. Ciao Gianni, salutoni anche a te, a stasera, ciao. Ciao a tutti.